Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Ciao a tutte e a tutti e bentornate e bentornati a Fermata Provvisoria. Sono sempre io Veronica e come sempre, come ogni martedì dalle 16.30 alle 17 vi terrò compagnia con la nostra rubrica settimanale che, come ormai sapete bene, per chi non lo sa lo dico ora, si occupa di dare spazio e voce ad artisti emergenti e non sulle nostre frequenze di 103.1. Ogni settimana va in onda un'intervista e anche oggi questa non mancherà, perché infatti tra pochissimo avremo ai nostri microfoni Christian Grassilli. Christian è un cantautore nato a Bentivoglio ma che ad oggi vive e lavora a Bologna. Lui ha scritto le sue prime canzoni a 15 anni, età in cui ha iniziato anche a suonare pianoforte e chitarra, e dopo la realizzazione di due demo, una Strana Lady nel 2001 e Figlio Unico nel 2003, nel 2007 ha autoprodotto il suo primo CD Lo Promo presso il Tam Tam Studio di Cesena. Tra l'altro alcuni brani del suo album sono stati trasmessi da programmi radiofonici nazionali e poi nel corso della sua carriera ha partecipato a vari concorsi. Ricordiamo ad esempio nel 2004 quando si è aggiudicato il secondo posto al concorso Non sparate sul pianista di Rimini, o nel 2008 quando è stato tra i vincitori del Musicultura Festival, durante il quale si è aggiudicato il premio per la migliore interpretazione col brano Sotto i portici di Bologna. Insomma, ha partecipato a vari concorsi che lo hanno portato ad essere il cantautore che è ora. E dopo varie partecipazioni, come vi dicevo adesso, nel 2011 insieme all'amico cantautore Gaspare Palmieri ha prodotto e scritto un disco libro dal titolo La psicantria, manuale di psicopatologia cantata, che contiene canzoni sul disagio psichico, con la prefazione tra l'altro di Francesco Guccini. Nel 2016 è uscito il suo secondo album dal titolo Crack si gira, mentre oggi lo ospiteremo qui a Radio Città Fuscico, dico qui naturalmente in senso figurato perché ahimè siamo ancora in piena emergenza sanitaria, quindi sarà semplicemente una chiacchierata al telefono. Dicevo, lo ospiteremo qui a Radio Città Fuscico per parlare del suo ultimo album uscito giusto qualche giorno fa, esattamente il 15 gennaio, dal nome Presente. Quindi ci faremo un po' un viaggio nel mondo di Christian, che ci racconterà un po' come è nato questo album, quali sono i temi principali, e non perderemo l'occasione per trasmettere anche qualche traccia. Anzi, direi di partire subito, prima di collegarci con Christian, con la prima, o meglio l'ultima della tracklist, che però è stata scelta come primo singolo rappresentativo dell'album, dal nome Riparare. Questo è Christian Grassilli. Riparare ad un torto, forse pure un errore, non è che l'inizio di un atto d'amore. Se quel vaso si è rotto o se una frase di troppo ha spezzato un rapporto senza troppo rumore, tu lo puoi riparare, che nessuno è perfetto, perché il passato è passato, è vero, ma può essere anche riletto. È ridarti valore, ricucire uno strappo e affrontare il dolore per quello che hai fatto. Riparare è proteggere e difendere, quel che senti di buono è trovare dimora ad un uomo che allo specchio si è dato il perdono. Può sembrare impossibile, irrecuperabile, fino a che non ti accorgi che è riparabile. Non esiste una storia senza cicatrici. D'altra parte neppure i bambini sono sempre felici. E per ogni ferita c'è una linea dorata, proprio lì dove la vita si era inciampata. Riparare, proteggere e difendere quel che vedi di buono, e aggiustare con gesti e parole, e lasciare volare il rancore. Può sembrare impossibile, irrecuperabile, fino a che non ti accorgi che è riparabile. Niente è indistruttibile o irrecuperabile, fino a che non ti accorgi che i ricordi più scuri e più storti, che i rimpianti e anche i rimorsi sono riparabili. Eccoci tornati in onda sui 103.1 dopo aver ascoltato Riparare, singolo di Christian Grassilli che, come vi ho anticipato poco fa, sarà tra pochissimo in nostra compagnia per presentarci il suo nuovo album dal nome Presente. Io ho ascoltato questo album, l'ho trovato anche molto profondo e molto attuale, perché tratta temi che, soprattutto in un periodo storico come questo, possono essere molto vicini ad ognuno di noi, ma naturalmente ce lo faremo raccontare meglio da lui in prima persona. Anzi, non perdiamoci in chiacchiere, facciamocelo raccontare subito da Christian, che è già in collegamento telefonico con noi. Ciao Christian! Ciao, ciao a tutti gli amici di Radio Città Fusico. Come stai? Tutto bene, grazie, tanto sereno. Voi? Ma tutto bene, grazie. Noi abbiamo appena trasmesso sulle nostre frequenze Riparare, che è uno dei tuoi ultimi singoli, contenuto nell'album che è uscito proprio qualche giorno fa, esattamente il 15 gennaio, dal nome Presente. Lo presenteresti un po' con le tue parole ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, magari anche raccontandoci un po' come è nato questo pezzo? Questo pezzo è nato da una mia curiosità verso l'arte del kintsugi, che è un'arte giapponese che consiste praticamente nel dare valore a un oggetto rotto riparandolo con dei materiali preziosi. Quindi spesso si riparano anche con oro, i vasi rotti, e queste decorazioni di un materiale prezioso rendono poi questo oggetto, danno una nuova vita all'oggetto e lo rendono unico. Mi interessava questa arte perché l'ultimo pezzo parla proprio della riparazione, in termini anche della possibilità di riparare alle proprie ferite, per cui è un po' un simbolismo volto un po' ad abbracciare il danno senza vergognarsi, come dicevo, delle ferite di ciascuno di noi, ma ricordando poi che in fondo sono proprio quelle crepe che ci costituiscono unici, con la nostra trama da raccontare, la nostra bellezza, anche con la fiducia poi di potersi rivedere con degli occhi nuovi, perdonandosi per quello che magari non è andato. Il pezzo l'ho deciso di mettere proprio come ultimo perché Presente è un disco che inizia invece con una rottura, tra virgolette, relazionale, una canzone che si chiama Grazie fin qui, e durante, diciamo, il disco il personaggio cerca in qualche modo di ritrovarsi, ecco, e quindi è un po' il concetto dell'album. Beh, bello, quindi segue un percorso questo album, dall'inizio alla fine. Sì, diciamo che le canzoni hanno qualche modo un racconto intorno a uno stesso tema, come dicevo un po' proprio il tema del qualche modo del riparare le relazioni con gli altri, ma soprattutto poi di recuperare, di leggere una relazione più intima e personale nei confronti di se stessi, in qualche modo con cura sollecita e anche leggera, ecco, un po' riappacificarsi con il passato, ma stando attenti a non anticipare troppo l'ansia del futuro, e quindi la parola presente è proprio da sottolineare, a riuscire a stare in quello che c'è, a lasciare essere quello che c'è. Infatti, anche in base a quello che ci stai raccontando, penso che i temi trattati in questo album siano anche molto attuali, visto appunto il difficile periodo storico. Cioè, tu credi che questo album, in un certo senso, possa aiutare anche le persone che ti ascoltano? Può essere anche un messaggio di incoraggiamento? Ma io penso che in generale la musica sia già di per sé, tutta la musica, un sì, incoraggiamento ad ascoltarsi, a viversi, a riconoscersi in qualcosa che ti ascolta e che magari anche a volte semplicemente si balla o che ci tiene compagnia nei momenti più bui, come a volte invece si può rendere ancora più con i suoi decori speciali, sono queste notine, anche i momenti belli della nostra vita li può incorniciare. Magari queste sono canzoni come se ne sono tantissime altre, quindi non penso che abbia niente di più questo album, penso che sia un album di canzoni. Quindi in qualche modo se qualcuno si riconosce o in qualche modo può trovarsi meno solo, può volerle condividere, penso che questo sia il significato, quello di scrivere canzoni in generale. Certo. Senti, a me la cosa che ha colpito di questo album, oltre che appunto i brani, i temi trattati come dicevamo adesso, è la copertina, perché nella copertina c'è questo elefante su un tappeto volante che all'inizio, prima di ascoltare il disco, mi sembrava un po' ambiguo, poi ascoltando il disco ho capito che appunto rappresenta, cioè ho capito cosa rappresenta, in particolare a quale frase si riferisce, perché c'è proprio una canzone che nomina questo elefante su un tappeto volante. Spiegheresti anche a chi ci sta ascoltando che cosa rappresenta e come mai è stata scelta questa immagine? Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la grafica Beatrice Tinarelli e Ello Bea, che è una grafica di Bologna. Soprattutto siamo stati compagni alle elementari e alle medie, perché io vengo da Baricello, e ci siamo, diciamo, ritrovati invece in città e abbiamo recuperato anche, insomma, la nostra conoscenza. E al di là di questo, lei è molto molto brava e è riuscita veramente a tradurre questo elefante speciale, che ha proprio questo simbolismo di leggerezza in qualche modo, e leggerezza che è anche il titolo di una canzone, sottolinea un po' il concetto di non lasciarsi troppo appesantire, forse anche di non prendersi troppo sul serio a volte nella vita, e in qualche modo mi piaceva che ci fosse l'elefante, perché l'elefante è un animale dotato di grande memoria, è uno degli animali che ha, diciamo, più memoria, per cui l'idea che, come dire, la propria storia, le proprie vicissitudini fossero conservate dentro di sé, ma questo tenerle a sé non lo appesantisse, avesse invece possibilità di continuare a volare un po' dove desidera, in maniera anche un po' spensierata, rendeva proprio il concetto sì di quella canzone, che poi è stata ispirata anche alla rilettura di Lezioni Americane di Calvino, ma anche proprio del disco in sé. Come un aquilone, come una canzone che non sa volare, come il volto del mare visto dal cielo su un aeroplano. Leggero come una stagione che gioca nascondino con il calendario, come un respiro lungo nel mezzo di un calvario. Leggero sui giudizi della gente, leggero come il passo del viandante, leggero come un elefante su un tappeto volante, come il tempo accanto a te si fa leggero in un istante. come Perseo, come Calvino, come un bambino su un'altalena, in una notte di luna piena. Leggero come un atomo che vaga e che racchiude tutto l'infinito, leggero come un ricordo ormai sbiadito, leggero come il primo bacio, come il grembiule alla ricreazione, leggera la profondità di un'emozione quando nasce. Leggerezza, vieni qui e portami per mano. Lai, lai, lai, lai, lai, leggerezza, resta qui, cammina. Come una fiaba da ascoltare in una stalla, come una mano sulla spalla, leggero come un paio di bretelle, come il nuotare delle acquadelle in un canale, come una nebbia da tagliare, leggero come un passeggero senza biglietto verso l'orizzonte, leggero come un detto in dialetto, leggero come un foglio, come le tortore su un filo, il leggero accennarsi di un sorriso quando nasce. Leggerezza, vieni qui e portami per mano. Lai, lai, lai, lai, lai, leggerezza, resta qui, volami accanto. L'altro singolo che tra pochissimo trasmetteremo sulle nostre frequenze è Presente, che dà anche il titolo all'album, appunto. Cosa puoi dirci invece di questa canzone? Ma Presente è una canzone che fa riferimento al concetto di presenza mentale, che è un concetto che ho scoperto grazie a un libro che ho letto che si chiama Dare il cuore a ciò che conta, di Corrado Pensa e Neva Papacristo, che sono due fondatori di un'associazione a Roma di meditazione, l'AIMECO, associazione di meditazione di consapevolezza. Io sono avvicinato 2 anni fa alla meditazione da praticante, neopraticante, diciamo, per cui sono tuttora incuriosito a questi temi. Quindi la presenza di cui parla la canzone è un po' la capacità di osservarsi, ecco, di stare consapevolmente in un atteggiamento non giudicante, soprattutto verso se stessi, ma in maniera intenzionale, a osservare ciò che si pensa, ciò che si prova e anche banalmente a notare come le cose poi cambino, senza che noi dobbiamo stare a fare troppi salti mortali, e accettandole anche in maniera non giudicante, ecco. Quindi Presente proprio questo senso, tant'è che il ritornello riprende proprio il titolo di questo libro, Dare il cuore a ciò che conta. Esatto, tra l'altro ho trovato molto interessante anche il videoclip ad opera di Michele Angrisani, dimmi se sbaglio. Sì, giustissimo. Che è composto da, diciamo, varie metafore, no? Che enfatizzano il significato della canzone. Com'è stato girare questo videoclip? Ma con Michele mi lega un'amicizia profonda. Lui ha studiato al dance a Bologna, per cui siamo ci siamo conosciuti già una quindicina di anni fa e abbiamo fatto lunghe chiacchierate di musica, di cinema, e ha fatto la regia del il mio primo CD di una canzone che era sotto i portici di Bologna, ed è stata un'occasione per tanto ritrovarci e ricondividere insieme le nostre passioni, e le metafore sono state azzeccatissime, nel senso che l'idea del personaggio che in qualche modo cambia continuamente occhiali è un po' una metafora del modo con cui si possono vedere diverse realtà se si cambia il punto di vista. Questo è un po' un incoraggiamento a riuscire a distanziarsi e a rileggersi da diversi punti di vista. Nel video oltretutto recita anche suo figlio, che è colui che in qualche modo fa parlare il passato, dovrebbe essere l'alter ego, il protagonista in versione young, e c'è invece una persona più anziana che in qualche modo simboleggia il futuro. Quindi c'è questo protagonista che in qualche modo si perde un po' nella sua vita e si ritrova nell'ultima scena del videoclip, in questa stanza dove si ripacifica un po' con se stesso e si sta vicino, ecco, gentilmente, come se si ritrovasse un po' dopo essersi perso. È stato bello, una villa sui Colli Ugani, due ville di un amico di Michele, in periodo in cui ci si poteva ancora spostare un po' prima delle noi restrizioni poi ritornate con l'autunno, e è stato bello anche condividerlo con i musicisti, con qualcuno dei musicisti che hanno collaborato al disco, come Tommy Ruggero, che è un bravissimo batterista di Bologna, Alessandro Cosentino, un altro pianista virtuoso, che ha arrangiato due brani in cui c'è un quartetto d'archi, e Lorenzo Mantovani, che è l'arrangiatore di tutti i brani del CD. Quindi è stata una... Allora approfittiamone per mandare un saluto a tutti quanti e ringraziarli per aver contribuito a questo disco. Assolutamente sì, soprattutto in tempi bui come questi, l'avere avuto la vicinanza di persone così importanti è stato un grande dono, e il dono, il presente in qualche modo significa anche dono. Vero, vero. Che ritorni a questo concetto. Allora, tra pochissimo trasmetteremo questa canzone sulle nostre frequenze di 103.1, ma adesso ti faccio l'ultimissima domanda che riguarda i tuoi progetti futuri. Che cosa dobbiamo aspettarci da te in questo 2021? Bella domanda. Non lo so neanch'io, quindi si sposta sul futuro, ho appena detto che bisogna stare sul presente. No, a parte gli scherzi. Spero di riprendere con qualche concerto di presentazione a Bologna, magari verso maggio, insomma maggio-giugno, fare qualche presentazione mi piacerebbe. E l'altra cosa a cui tengo molto è un altro progetto musicale che ho portato avanti insieme a Gabriele Barbieri, che è uno psichiatra di Modena, il progetto si chiama Psicantria, e stiamo scrivendo brani per il quarto disco di Psicantria, che è un progetto legato a far conoscere le malattie mentali o canzoni che racconti psicoeducative, quindi raccontino anche il tema legato alla salute mentale. Io sono uno psicoterapeuta, per cui mi piace molto anche la possibilità che ho per la canzone di parlare di quello che vediamo con Gaster, quello che facciamo in privato, con la nostra professione. E quindi registreremo Psicantria e forse addirittura entro fine anno dovrebbe uscire. Il disco mio cercherò comunque di portarlo fuori, vediamo un po', dai, con le restrizioni e con le varie cose che ci aspetteranno. Allora speriamo che questa situazione migliori presto. Insomma, io adesso colgo l'occasione per farti un grande in bocca al lupo. Viva il lupo! E ti ringrazio anche per la disponibilità e per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi per la disponibilità e anche per la compagnia che mi avete fatto. Buon lavoro! E speriamo di sentirci presto, magari anche di farci una bella chiacchierata nei nostri studi, diciamo in presenza, quando la situazione lo permetterà. Io aspetto solo l'invito, ci sono sicuro. Perfetto. Grazie mille, ciao. Grazie, ciao. Presente quel che sento, cosa penso in questo momento? Che si tratti di gioia o turbamento, lo noto, resto attento. Hai presente oppure hai passato troppo tempo a riguardarti indietro? Oggi anticipi il timore di un futuro errore. Da un ramo all'altro salta senza sosta una scimmia nella mente. La osservo, le sorrido, mi avvicino, chi gli ha dato la patente. A volte trovi più rassicurante navigare tra i ricordi e vivere distrattamente. Poi un giorno ti stupisce l'indifferenza della gente, ma non ti chiedi più se dai al cuore ciò che conta e sai tenerti a distanza anche da questa domanda, perché in fondo spaventa. Non ti interessa più provare a cavalcare l'onda, rincorri sempre una scadenza, allora prendi e scappi via, e scappi via, via da te. Presente non è altro che accettare ciò che passa nella mente e accorgersi in un niente che le cose cambiano continuamente. Di certo è ben più rassicurante riguardare lo stesso film ed attaccarti a quel finale. Poi un giorno ti stupisce il non saper rischiare. Allora butti l'occhio al tuo vicino che va controcorrente. Ti chiedi quanto il mare sia profondo, faresti un galleggiante. E con l'aria del rappresentante ti convinci che alla fine non ci si può far niente. E mescoli la vita a un altro diluente e non ci pensi più a dare al cuore ciò che conta. Scegli di stare in panchina con la vita in vetrina perché il gioco spaventa. Così rimani lì a coltivare un'altra assenza, immaginando una partenza, ma resti fermo e scappi via. Ho cantato, è già passato, ma ecco arriva un altro istante.